Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Il programma europeo Erasmus compie 30 anni, proprio mentre i trattati di Roma, quelli da cui è nata l'Unione Europea, ne compiono 60. Erasmus ha cambiato la vita di oltre 3 milioni e mezzo di universitari, di studenti, di giovani, ma anche di educatori e docenti, poi di volontari e ora di sportivi. Nel 1957 è stata istituita la Comunità Europea, l'istituzione che dopo l'evoluzione e lo sviluppo dei suoi confini e delle sue competenze è diventata l'attuale Unione Europea. Questi due anniversari cosa possono dire per il futuro dell'Europa? Ne parliamo con l'europarlamentare Silvia Costa. Cosa si aspetta il Parlamento europeo per il futuro dell'Europa? Ci aspettiamo che già a partire dal 25 marzo, nella dichiarazione di tutti gli Stati membri solenni in Campidoglio per 60 anni del Trattato di Roma, si raccolgono le sfide e le proposte fatte dal Parlamento proprio in questi giorni. Noi chiediamo più democrazia e più trasparenza per le istituzioni europee, anche aumentando la possibilità della intervento del Parlamento europeo e di maggioranze qualificate, non solo dell'unanimità, per il Consiglio dei Ministri, per non bloccare i processi decisionali. Chiediamo che ci sia finalmente un bilancio proprio dell'Europa e anche una sua capacità di investimento fiscale. Chiediamo finalmente, e l'abbiamo proposto concretamente, il famoso pilastro sociale con un salario minimo per i lavoratori europei, la difesa dei diritti dei lavoratori, ma anche un welfare europeo. Chiediamo finalmente una politica della difesa coordinata tra i paesi e una politica estera più integrata e soprattutto anche che ci sia finalmente un sistema vero di politiche dell'immigrazione e dell'asilo europeo superando Dublino e con una solidarietà tra i paesi membri. Chiediamo l'istituzione della Procura europea e di rafforzare anche la sicurezza attraverso la maggiore comunicazione nell'intelligence dei vari paesi. Inoltre chiediamo di porre fine all'Europa, come si dice, alla carte, cioè se conviene si vota a favore e se no no da parte dei Stati membri, prevedendo anche, per esempio, che ci siano non la doppia velocità, come qualcuno l'ha chiamata, ma delle scelte da parte di alcuni paesi, come il nostro, che vogliono rafforzare più velocemente l'integrazione europea, che si possa andare anche con diverse responsabilità nell'integrazione. I giovani Erasmus possono essere i più forti alleati per un'Europa migliore? La generazione Erasmus è la generazione, come si è visto da tante ricerche, ma anche dall'esperienza diretta, più naturalmente alleata con chi vuole più Europa, ma un'Europa anche più giusta, un'Europa delle opportunità, un'Europa che non discrimini. Credo che siano i veri, naturali alleati per un futuro dell'Europa che, vista come il comune destino, ma come anche uno spazio di pace, di libertà, di democrazia e cittadinanza attiva. Per questo proponiamo che sia decuplicati le risorse per Erasmus, ma soprattutto chiediamo che l'Europa della cultura e dell'educazione siano molto più centrali nelle priorità della Commissione Juncker e nei nuovi trattati, ma soprattutto anche nella dichiarazione di Roma del 25 marzo.